Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Avrete riconosciuto le note di Scandalo al Sole, un film, una musica classica di tanti anni fa che fanno appunto restare molti ricordi a chi ha una certa età, ma anche una grande esperienza l'ospite di oggi. Buongiorno e buon pomeriggio a Mario Boselli. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, una delle grandi figure del Made in Italy e della moda in Italia, però un accenno a questo Scandalo al Sole 1959. Eravamo tutti più giovani, ci ricorda qualcosa di particolarmente sentito anche a lei? No, a me ricorda un fatto molto importante della mia vita, perché ho conosciuto allora la mia attuale moglie, quindi parliamo di più di 50 anni fa. Infatti noi quest'anno festeggiamo a maggio 49 anni di matrimonio e quindi ci è voluto un po' di fidanzamento. E quindi questa canzone è stata la canzone di quel periodo della conoscenza e quindi di questo primo e devo dire unico vero amore. Unico grande amore, possiamo dirlo. Ecco, com'era l'Italia del 1959? Come se la ricorda questo nostro paese? Ma molto semplice, più semplice di ora, con un gran fervore di crescere, una grande volontà di crescere, perché la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, non era così lontana e quindi era una fase ulteriore di sviluppo e di ricostruzione del paese. Quindi grande volontà di crescere, grande volontà di emergere, grande passione che adesso è un po' affievolita? Beh, devo dire, è cambiata non l'Italia, è cambiato il mondo. In un mondo globalizzato tutto è stato fortemente rivoluzionato. La globalizzazione dei mercati e delle economie ha certamente cambiato gli equilibri mondiali. Quindi quello che allora era un po' il cuore dello sviluppo, allora ci confrontavamo solo fra noi e l'America. Certo. Il Giappone era lontano, la Cina non esisteva. Ecco. Oggi è esattamente il contrario. Crescono di più i paesi BRIC, Cina in primis, ma anche la Russia e la vecchia Europa. A me ricorda sempre, soprattutto quando torno, come è avvenuto 10 giorni fa dalla Cina, torno a casa, ecco questa vecchia signora molto elegante, molto classica, musica classica, il tè delle 5. È una società un po' vecchia forse, noi siamo un po' vecchi, però noi abbiamo uno spirito giovanile, io posso dire, lei lo conosco da tempo, ha un grande spirito giovanile, una grande voglia di conoscere, di viaggiare, viaggia ancora molto, l'ho appena detto, viaggia. Allora, sono stato a Beijing, dove c'era questa grande manifestazione della Fashion Week cinese che sta crescendo, Chic, che è una fiera molto importante. E quello che è stato direi significativo per l'Italia è la presenza di Milano Unica, che ha portato 96 aziende tessile a presentare il meglio della produzione. Ecco, quindi italiana. Per l'Italia, per il merito italiano, non c'è solo la moda di alta gamma. Come siamo presenti su questi mercati, soprattutto in Cina, che è il mercato forse più promettente, in cui si dice ci siano 300 milioni di persone che hanno ormai dei livelli di vita di tipo occidentale? Ma va spiegato un po' il fenomeno. Noi siamo in Cina molto bene con le grandi maison, quelle universalmente riconosciute, i nomi sono sulla bocca di tutti. Possiamo anche farli. Prada, che è andato lì, per esempio, anche a quotarsi, a Hong Kong, Ferragamo, Zegna, poi tutti i grandi, Armani, Dolce & Gabbana, devo dire, la moda italiana. E i grandi ci sono. Un fenomeno nuovo, che è quello che noi stiamo aiutando, è quello di far arrivare in Cina delle maison che fanno degli ottimi prodotti made in Italy, ma che per la dimensione e l'essere conosciuti da quella parte del mondo non hanno vita facile, ecco, quindi la Camera della Moda deve aiutarli in questo. Perché la piccola e media impresa italiana, che è un po' la spina dorsale dell'economia italiana, della produzione italiana, del manifatturiero, anche nel settore tessile, ovviamente non può avere la forza d'impatto che ha un grande gruppo. Allora si riesce a creare una rete, una struttura, un supporto che dia anche a queste medie imprese la possibilità di sfondare, se possibile, sui mercati esteri? Diciamo che non è facile. La Camera della Moda li aiuta. Quello che noi diciamo è che proprio dobbiamo andare un dovere nelle zone del mondo che crescono. E se lei va a ben vedere, le zone che crescono sono quelle che sono lontane più di 5.000 miglia. E quindi va fatto con gli strumenti che abbiamo a disposizione noi, i pochi strumenti che noi abbiamo a disposizione, perché con le vicende che hanno caratterizzato questa riforma dell'ICE è chiaro che è una fase molto delicata in cui non si sa bene su quale futuro basarci. Ecco, come sistema paese abbiamo qualcosa da rimproverarci nel sostegno che diamo alle aziende che vanno all'estero. Altri paesi, si cita sempre la Germania, hanno forse una diversa capacità di sostenere l'impresa all'estero. Direi corretto. Quindi lei ha citato la Germania, ma anche la Francia non scherza. Io credo che abbiamo anche delle organizzazioni valide, parliamo di SACE, parliamo di SIMEST, però non basta, soprattutto per le imprese medie e piccole. Un discorso forse che va fatto, perché l'abbiamo accennato prima ma non abbiamo completato il concetto, è quello dei tessuti. I tessuti, che sono un prodotto semilavorato, si fa ancora più fatica a portarlo fuori perché non ha l'immagine di un prodotto finito, come certo, è ovvio. Ora, la bella esperienza di Milano Unica ci fa dire che invece, grazie al fatto che gli stilisti, se vogliono crescere, hanno bisogno di un prodotto eccellente come quello italiano, ecco, questo upgrade che stanno avendo anche gli stilisti cinesi li obbliga a comprare italiano, a cominciare a comprare italiano. Quindi vuol dire che il Made in Italy non è solo il bello, ma è anche la qualità. E soprattutto la qualità. Io sostengo una definizione che, a differenza per esempio del luxury francese, il nostro prodotto, quello del prêt-à-porter alto, quello degli stilisti, io lo definisco il bello ben fatto, che ci riconduce a quello che diceva lei, cioè il bello nel senso estetico, ben fatto, ma tutto questo va coniugato con l'eccellenza dei materiali. Eccellenza dei materiali che vuol dire tessile d'eccellenza, quindi la parte a monte della filiera. Ecco, e sono anche settori, segmenti, diciamo, di produzione in cui il prezzo ha un'incidenza inferiore, in cui anche il fatto di avere un costo del lavoro, un costo anche indiretto della struttura industriale, magari della logistica e così via, che penalizza in un certo modo l'Italia, può avere un'incidenza inferiore rispetto agli altri paesi. Corretto, nel senso che è un po' così. Quello che però va aggiunto è che noi oggi siamo in questa situazione temporaneamente, cioè noi siamo direi con dei nanosecondi da considerare in termini di competitività. Quindi dobbiamo dire che noi dobbiamo continuamente innovare, e per far questo dobbiamo realizzare quella che io definisco la creatività tecnologica, cioè questa commistione di capacità creativa ma anche di tecnologia applicata. Ecco, tecnologia applicata che è anche la tecnologia di produzione. L'Italia è, anche nel settore tessile, un paese che è all'avanguardia, uno dei primi posti come capacità di produrre macchine per poi venderle a questi paesi. Quindi anche su questo fronte abbiamo delle prospettive di poter, qui si tratta sempre per la parte italiana di cercare in qualche modo di avviare la crescita, di riavviare la crescita. Abbiamo delle prospettive sui mercati esteri. Il meccano tessile italiano è uno dei migliori al mondo, e questa, direi, capacità tutta italiana di aver mantenuto le filiere tessili nella loro interezza, grazie anche al meccano tessile, fa sì che siamo ancora, nonostante appunto la scarsa competitività dovuta ai nostri costi, energia, manodopera in primis, in grado di competere. Quindi il tessile può essere ancora un settore di punta per l'Italia. Direi che paradossalmente non solo può esserlo, ma sta tornando ad esserlo, perché qualche, diciamolo pure, anche stilista che ha cercato delle scorciatoie e quindi ha utilizzato magari prodotti cinesi, ha avuto durante questa fase non certo di particolare brillantezza dei cali di fatturato notevoli. Chi è stato fedele al vero Made in Italy, all'eccellenza dei prodotti, ha performato meglio. Incontri. Ancora con le tranquille note di Scandalo al Sole, 1959, riprendiamo l'incontro con Mario Boselli, Cavaliere del Lavoro, Presidente della Camera Nazionale della Moda, imprenditore. Ecco, cosa vuol dire essere imprenditori oggi ed essere stati imprenditori del 1959? Prima abbiamo visto com'è cambiata l'Italia. Com'è cambiato il modo di essere imprenditore? Ma io vedo i miei figli molto più lavoro per avere minori risultati, quindi è molto più difficile. Quando non si cresce è tutto più complicato. Gli anni 60 e anche 70 sono stati anni splendidi. Oggi non solo perché si sono globalizzati i mercati, ma anche perché è diventato molto più difficile fare l'imprenditore in generale. È una sfida non facile da vincere. Ecco, è difficile ma è necessario, perché bisogna che ci siano degli imprenditori, che ci siano delle imprese che abbiano la voglia, il coraggio di affrontare la sfida, questa sfida della globalizzazione, che non è solo uno slogan, è qualcosa di molto concreto. Che cosa si può dire ai giovani di oggi per non scoraggiarli? Di guardare avanti con ottimismo, perché senza ottimismo non si va da nessuna parte. L'imprenditore deve essere ottimista per natura e quindi bisogna avere il coraggio di guardare delle prospettive comunque positive. E credo che una delle cose che ho detto anche prima relativamente al nostro settore, per poter guardare avanti con ottimismo bisogna guardare lontano, e lontano vuol dire non solo lontano nel tempo ma anche lontano nello spazio, a territori dove si cresce. Ecco, lei è stato recentemente in Cina, ha anche fatto dei viaggi, ha un calendario abbastanza fitto di impegni per le prossime settimane, qualche obiettivo che ha nel suo portafoglio, nel suo biglietto di viaggio? Ma due molto diversi fra loro, due viaggi da completare nei prossimi 20 giorni. Il primo è in Uzbekistan, che è un paese molto particolare, che ha anche una valenza tessile significativa, perché è un grosso produttore di sete, soprattutto di cotone, e quindi un mercato più per l'approvvigionamento, anche se cominciano a esserci le prime boutique di nostri grandi marchi. E l'altro invece una settimana dopo a Singapore, dove c'è una Fashion Week, dove andiamo anche con una nostra realtà stilistica, ma per firmare anche un accordo di cooperazione, perché riteniamo che noi, al di là dei due accordi base, quello fatto con i francesi e quello fatto con i cinesi, abbiamo bisogno di stipulare una serie di accordi magari di maggior rilevanza, ma importanti per una presenza in aree circoscritte. Ecco, chiudiamo un attimo la parentesi sul business. Tra i tanti paesi che lei ha visitato da imprenditore, quale ha colpito di più da un punto di vista, direi, soprattutto umano, non tanto commerciale o industriale? Quale paese che l'ha colpita e in cui magari avrebbe pensato, ma qui si potrebbe vivere bene, si vive benissimo in Italia, penso che lei sia d'accordo, ma quale paese? Ma guardi, per vivere bene io starei abbastanza vicino, Francia, Spagna. Ecco, se invece dobbiamo dire paesi che mi hanno colpito per certe caratteristiche, ne prendo due molto distanti fra loro, Cina e Colombia. La Colombia perché io sono stato con il presidente Uribe, soprattutto con la moglie, a cercare di convertire delle culture da droga a tessile, quindi le popolazioni che vivono all'interno. Sfida molto difficile, certo. Però devo dire che questo paese sta attivando un percorso di gran qualità. Quindi io mi sono sentito partecipe di questo progetto. Ho avuto anche poi l'onore di ricevere una decorazione, una gran croce da parte del Presidente. E l'altra, la Cina, perché la Cina, paese nel quale sono andato per la prima volta nel 1978, dal 78 ad ora ha fatto un percorso che è incredibile. Cioè ha fatto la vera rivoluzione. Le prime, direi, fasi, i primi decenni sono stati di una crescita progressiva, significativa, ma relativamente lenta. Negli ultimi 15 anni è esplosa. Ma quello che va capito, e va capita direi anche la mentalità di questo popolo, che è anche orgogliosa, è la rivoluzione qualitativa. Noi abbiamo considerato da molto tempo in qua i cinesi che producevano tanto a bassi prezzi. Oggi stanno facendo qualità, in qualche caso anche eccellente. Quindi la prospettiva è quella di aprirsi alla Cina proprio per cercare di innestarsi in un meccanismo di crescita. L'Italia può tornare a crescere come paese, di là appunto il settore tessile è importante, uno dei settori di punta, ma come paese lei ha fiducia, lei è ottimista per natura, oltre che per contratto e per esperienza. Ma credo sì, però dando tempo al tempo. Cioè io credo che alcune dichiarazioni di questi giorni, di un certo ottimismo anche dei nostri governanti, siano condivisibili. Cosa dicono? Conosceremo lo sviluppo, però ecco, diciamo che quei provvedimenti che ci sono stati certamente non aiutano i consumi. Quindi io prevedo a breve una fase certamente recessiva e un'auspicabile ripresa dal 2013 in avanti, quando alcuni altri provvedimenti, le cosiddette semplificazioni e quant'altro, potranno far sentire i loro effetti. Però le cose severe le subiamo subito, certo. E quelle altre perché è così difficile semplificare? In Italia se ne parla da tempo, ci sono stati ministri della semplificazione, eppure una recente indagine della Banca Mondiale ha detto che l'Italia è all'ultimo posto come velocità per le pratiche doganali delle imprese. Un'impresa per una operazione doganale non semplicissima, un po' complessa, può impiegare fino a 20 giorni in più di un'impresa tedesca. Come mai? Difficile semplificare. Io ho due interpretazioni, una benigna e una maligna. Cominciamo da quella benigna, che è un po' legata ai nostri cromosomi. Siamo un po' barocchi, siamo un po', direi, raffinati in certi ragionamenti, quindi questo non aiuta le cose. Quella maligna e che sono scelte della pubblica amministrazione perché un modo per mantenere il presidio e controllare le posizioni, confini più o meno lineari, certo, e puliti, c'è da utilizzare la discrezionalità, e la discrezionalità è legata all'interpretazione delle regole, quindi. Ecco, quindi sì, l'interpretazione maligna probabilmente ha anche un suo fondamento di verità. Bisogna cercare forse di superare entrambe, sia le due interpretazioni, cercare di fare un paese più moderno. Potremmo anche copiare dagli altri, copiare dal modello tedesco, ma forse anche su certi fronti è più difficile accettare di dover copiare. Però ecco, per esempio sul mercato del lavoro qualcosa da imparare dagli altri dovremmo averlo. Credo di sì. Dibattito ancora in è corso, ancora aperto, certo. Ma oggettivamente credo che sia un tema che abbiamo il dovere di affrontare. Sì, così come un altro dovere da affrontare è il tema della scuola. Come vedi i giovani che escono dalla scuola, che entrano adesso nel mondo del lavoro? Certamente hanno grande volontà, anche perché è necessario la ricerca di un posto di lavoro, però rischiano di essere un po' frustrati dalla realtà in cui si trovano confrontati. Io credo che non voglio esprimere giudizi sul sistema formativo. Dico solo che quando si esce dalla scuola, a qualunque livello, si deve avere il coraggio di sporcarsi le mani. Io credo che uno dei grossi problemi della disoccupazione giovanile è che uno oggi esce dalla scuola e se non c'è un posto di lavoro più che adeguato, quantomeno per il profilo di studi, certo, che è, non lo si accetta. Questo a mio giudizio è un grave errore. Nella moda, io dico sempre ai miei, voi non andate a aspettare di essere dei novelli Armani, dei novelli Dolce Gabbana. Voi avete il dovere di cominciare a lavorare nella moda, fare il sarto, fare il modellista, fare dei lavori anche umili, perché si può iniziare un percorso. Ed è un settore, anche questo, ma come tutti gli altri settori, in cui è sempre possibile innovare. Non c'è mai un limite a dire abbiamo già fatto tutto. È sempre possibile innovare, e soprattutto la moda crea anche dei bisogni. Questa capacità appunto di creare i bisogni, di creare qualcosa che uno non si aspetta. È una grande creatività che in fondo è una scoperta di una realtà essenziale della persona. Lei si sente di essere stato un creativo, di essere un creativo? Ma guarda, bisogna intendersi, io non creo nei vestiti, io ho una creatività quella più di tipo tecnologico, capivo e capisco di fili, capivo e capisco di tecniche di immagliatura, quindi tessitura maglia, e credo in quell'ambito di essere stato anche un buon innovatore. Poi, ma ecco, essere creativo agli stilisti lascio il loro certo mestiere. No, ma ognuno fa il suo mestiere, ma essere creativo vuol dire anche avere una percezione che un certo mercato può essere interessante. Lei parlava di Singapore, magari a nessuno viene in mente di andare a Singapore, però tentare e provare vuol dire mettere alla prova anche la creatività. No, ma guardi, se, allora io lì uso un altro termine, parlo di innovazione. Allora, sull'innovazione io credo di essere abbastanza un visionario. I due accordi fatti, proposti in grande solitudine nell'anno 2000 con i francesi, che era un accordo molto contestato all'inizio fra cugini. E che oggi concorrenti, invece, possiamo dire. Esatto, viene oggi considerato una delle scelte più intelligenti che abbiamo fatto. E quello di un anno fa con i cinesi, dove abbiamo detto ci sono solo due sarti del mondo, uno alto di gamma dell'Italia, non a caso produciamo anche per i francesi, e l'altro per le produzioni massificate, la Cina. Smettiamola di guardarci in cagnesco e cerchiamo di giocare la carta della complementarietà, tenendo lontani gli inseguitori. Credo che siano due esempi di grande visione, di grande innovazione. Di grande innovazione strategica. Allora stiamo avviandoci alla conclusione. L'ultimo messaggio che vuole dare a chi ci ascolta in questa domenica pomeriggio, cercando appunto di dare un messaggio, non glielo suggerisco, ma lo so che uscirebbe comunque, di ottimismo. Ma coraggio, determinazione, impegno e soprattutto essere un po' visionari, perché senza la visione non si va da nessuna parte. Mi sembra di ascoltare Steve Jobs, abbiate fame, siate un po' pazzi, insomma. No, lui è molto più bravo, è stato molto più bravo. Però devo dire che certe regole, certe norme, certi suggerimenti sono validi di qua e di là dell'Atlantico. Grazie mille, grazie a Mario Boselli, presidente della Camera Nazionale della Moda, di essere stato con noi. A lei per avermi ospitato. E grazie a Roberto Scartritti in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.